140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche il mio account @MartaCagnola. Tutta dedicata alla mostra del cinema, la nostra puntata di oggi di 140 caratteri. Casa Zoran, Venezia. Vince la settimana della critica Zoran, Il mio nipote scemo. Lo zio con nipote a sorpresa, a Venezia con due film, è Giuseppe Battiston. Paolo è un mezzo disgraziato, un balordo di campagna che tira a campare con mezzi e mezzucci, con quello che trova. Ecco, è convinto di essere molto furbo, in realtà è palese agli occhi di tutti la sua inadeguatezza al consorzio civile, alla vita in mezzo al consorzio civile. È un uomo che si ritrova tra capo e collo un nipote che non sapeva di avere, che deve accudire per qualche giorno e che ai suoi occhi sembra scemo, ma invece scemo non è, piuttosto sveglio questo ragazzo, e ha una peculiarità: riesce a colpire, a centrare sempre il centro del bersaglio delle freccette, quel puntino rosso che tutti sognano di acchiappare. Lui lo centra regolarmente. Allora Paolo, nella sua pochezza, nella sua inadeguatezza, cerca di approfittare di questo ragazzino portandolo in giro per i bar, improvvisando tornei per vincere salami e damigianette di vino, finché un giorno gli spiegano che di quella specialità esistono anche i campionati mondiali e si vincono decine di migliaia di sterline. Ecco, allora lì la vicenda assume un altro tono e poi questo poi si vedrà al cinema. C'è un aspetto che i non friulani o i non nordestini in generale capiscono poco, che è quello del rapporto col vino, certo. Che è un rapporto molto importante. Assolutamente. Infatti nel nostro film Paolo rappresenta più un monito che un esempio, no? È una figura deteriore, ha un rapporto proprio di dipendenza dall'alcol, dal vino, ed è quello che fa, ed è la sua pratica quotidiana. Però secondo me anche nel film viene fuori quello che è il nostro, parlo da friulano, il nostro reale rapporto con quella bevanda, che io ho sempre pensato e sempre penserò essere uno straordinario veicolo di conoscenza e di amicizia. La cosa più bella per un friulano è poter offrire il proprio vino a chi lo va a trovare. Insomma, sono un po' scontrosi, però dopo si parla di vino, si allargano, si aprono, diventano gentili e affabili. È interessante in questo film il fatto che si parli senza parlare di confini, si parla della tua terra, che è una terra molto particolare. E questa è una cosa importantissima. Il film è una coproduzione appunto italo-slovena, e quindi c'è anche una troupe italo-slovena con cui è stato davvero bello e profondo lavorare, e ogni volta che ne parlo lo chiamo il nostro film, perché siamo veramente felici di averlo realizzato così. Risponde molto a quello che, risponde esattamente a quello che avevamo in testa io e Matteo. Villa Miramare, Venezia. Già in sala L'intrepido di Gianni Amelio, la storia di un uomo precario nel lavoro e negli affetti, scritta su misura per Antonio Albanese. Noi abbiamo cercato di lavorare prima di tutto raccontando l'oggi, il nostro paese. Quando Gianni, un anno e mezzo fa circa, mi ha dato questa possibilità, io l'ho condivisa immediatamente, perché io amo per deforma, proprio lo faccio da anni ormai, da sempre, raccontare il nostro tempo, l'ho fatto in mille modi. Sono reduce da esperienze brutali, pur trattando la comicità, e sentivo oggi, proprio l'oggi, il desiderio di raccontare questo nostro tempo con estrema bontà, con estrema leggerezza, cioè cercando un segno diverso. Quindi io ne ho fatte di cose strane, voi un po' lo sapete, da certo non certo, io credo che questo sia il film più trasgressivo che io abbia mai fatto, perché offrire, e io sono spettatore, a noi, voi e al pubblico, un modo diverso mi sembra sempre bello e onesto. Questo è un uomo che vive il suo tempo con leggerezza, reduce da, diciamo, lui arriva da una famiglia popolare, come anche la mia, per esempio, non ha avuto delle fortune economiche o professionali, e insegue il tempo con serenità, su un fondamento chiaro, su una morale, insegue con una determinazione sorprendente, che può davvero sorprendere nel bene e nel male, perché dici, ma come? Ma è questo è voluto però. Questo è voluto, questa sua bontà è voluta. E c'è questo messaggio finale, questo sguardo che è stato molto cercato da Gianni, questo sguardo finale che ci abbraccia con un po' di speranza. Antonio, in questo film tu fai un sacco di lavori, ma quale ti è divertito di più sperimentare? Sicuramente guidare il tram. Abbiamo fatto dei corsi anche, io ho goduto molto perché mi piaceva l'idea di, come dire, di sezionare la città, perché quando guidi il tram hai una tua precedenza particolare, insomma ti sembri un po' un reietto un po', no? Ed è bello, mi sentivo assolutamente milanese guidando il tram, perché è proprio l'oggetto che è Milano, non solo, beh c'è in altre città, però questo è stato curioso, mi sono proprio impegnato e divertito anche a fare, poi determinati lavori li avevo già un po' fatti io, però era anche questo cambio continuo, era anche divertente questa quasi ossessione, questa determinazione nel fare mille lavori. Io soffro veramente di vertigini, quindi sai, quando stai al 24° piano su un'impalcatura, davvero ci abbiamo pensato molto e mi è venuto quasi naturale l'attacco quasi d'ansia, perché soffro un po' di vertigini, però è stato bello esplorare questi mille lavori manuali. Precarietà lavorativa ma anche precarietà dei sentimenti, c'è anche un po' la crisi dell'uomo inteso proprio come maschio. Sì, assolutamente, sì sì, questa impotenza mentale, sì c'è, ma certamente c'è. Sì, c'è anche questo, c'è, non in maniera assoluta, però abbiamo anche nel rapporto trattato anche questo, nel rapporto, per esempio c'è un dialogo che io amo molto, che è quello con la mia ex moglie, però sereno, c'è, certo, e poi c'è questo incontro col suo nuovo marito, un brutale maschilista materialista. In tutto questo la cosa sorprendente e curiosa è che tutto questo esiste, come esiste quel tipo di precariato, esiste quell'umanità, diciamo, un po' malvagia, quell'umanità orribile, ecco. Hotel Excelsior Venezia. Anche musica alla Mostra di Venezia e musicisti amatissimi. Nella giuria del Soundtrack Awards, il recordman della stagione, Cesare Cremonini. L'impatto iniziale per una prima volta da giurato come me, ovviamente all'inizio era piuttosto razionale. Cioè, il primo film che ho visto, ovviamente la prima cosa che ho fatto è cercare un po' di scindere le immagini dalla musica per cercare di estrapolare le note che trovavo più interessanti. Poi dopo ho capito che questo è un doppio lavoro che va a farsi su questo mio compito. In realtà quello che serve è lasciarsi andare, no? Lasciarsi prendere dal film che stai guardando e cercare di comportarsi il più possibile come una persona che è come qualcuno che ha pagato un biglietto per vedere il film piuttosto che da giurato, e poi dopo all'interno di queste emozioni vedere quali sono quelle che più affiorano a pelle. E quindi il mio metodo di giudizio in questo momento è decisamente legato a quanto una colonna sonora mi fa vibrare, rispetto però sempre alla storia che sta raccontando il film. Ma se tu fossi alle prese con una colonna sonora, ti piacerebbe immaginarti, visto che comunque tu hai una vera cultura musicale, una vera preparazione musicale, immaginarti come autore di colonne sonore? Sì, mi piacerebbe, è una cosa che spero che mi accadrà. Lavoro spesso con gli archi, con le orchestre, ho avuto la fortuna di lavorare a Londra per diversi anni con le migliori orchestre di Londra per la realizzazione dei miei dischi, quindi anche con i più bravi arrangiatori, con tra i migliori compositori della scena musicale di Londra, e questo mi ha permesso di capire che in mondi decisamente sdoganati musicalmente, quindi avanti da un certo punto di vista come quello inglese, il ruolo del compositore si presta alla musica pop, come alla musica leggera, come alla musica classica, con una grande facilità e quindi con una donando grande dignità col suo mestiere a più arti. E quindi allo stesso modo considero l'idea di poter arrangiare musica per una colonna sonora un impegno che mi piacerebbe affrontare nello stesso modo in cui posso affrontare l'arrangiamento di una canzone o la realizzazione di un disco. È chiaro che mi pongo sempre come una persona in grado, per fortuna, di mettersi a disposizione per imparare, quindi comunque mi farei affiancare magari da qualcuno che mi possa consigliare bene. Ma che impressione hai avuto delle colonne sonore che hai ascoltato, insomma, alla fine del tuo lavoro qui come giurato? La sensazione che ho avuto io è che i film parlano spesso di persone alienate, di solitudini piuttosto controverse, di persone che si chiudono in mondi interiori e si ammutoliscono per questo motivo, no? Credo che poi il mutismo generale delle emozioni sia uno dei problemi di questo momento storico, almeno in Italia, che è il mondo che vivo io. E l'assenza spesso di colonne sonore dentro i film, cosa che ho notato statisticamente che sta accadendo quasi in ogni lungometraggio che vediamo, o meglio a volte è veramente minimo l'accenno musicale, credo che sia un po' un cercare di rafforzare ancora di più la solitudine dei personaggi, perché credo che togliere la musica a un essere umano in fin dei conti sia renderlo decisamente totalmente solo, e quindi a maggior ragione questo forse è il motivo per il quale stiamo ascoltando poca musica in questi film. Allora speriamo in un futuro di musica con respiro più ampio. Sicuramente sì, ne parlavo prima con Giuliano Montaldo, che è il nostro presidente di giuria ed è anche una persona dal quale sto imparando molto sotto il punto di vista professionale ma anche umano, e mi diceva che è molto deluso, non in maniera se vuoi inaspettata, però da un punto di vista puramente riguardo all'obiettivo insomma che abbiamo, non è facile scegliere fra colonne sonore che in qualche modo rimangono tutte quante più o meno abbastanza timide, ecco. 140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi, i protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter, giorno per giorno, tra conferenze e presentazioni stampa. Ancora la mostra del cinema di Venezia nella seconda parte del nostro 140 caratteri. Hotel Excelsior, Venezia. L'italiano più applaudito della mostra, 2 anni sul raccordo anulare per scoprirne i segreti. Sacro Gra, documentario di Gianfranco Rosi. È un confine ideale, è un confine reale, perché chiunque entri ed esca da Roma deve passare attraverso il raccordo. È l'incubo dei romani, il raccordo. Uno lo percorre, lo ripercorre, e va da un luogo all'altro e non guarda mai nulla, non riesci mai a capire che lì c'è una storia, lì c'è una vita, lì c'è un segnale, lì c'è qualcosa. E quindi uno può percorrere all'infinito, e poi però basta avere il coraggio di uscire anche a caso, in uscita, guardarsi attorno e capire che ci sono delle storie che non si guarda, perché questo penso sia uno, dopo Fellini che fece questo meraviglioso schizzo sul raccordo, penso sono stati mai fatti dei film a Roma, immagini del raccordo, e quindi è una realtà in divenire, qualcosa che però è qualcosa che non si guarda, nessuno si sofferma, una periferia, quasi un luogo senza identità, non ha ancora un'identità, pur essendo è Roma, il raccordo è Roma, ma non viene mai trattato parte di Roma, no? Dice fuori dal raccordo, come se uno andasse chissà ne. Pensi che anche con l'attenzione da parte della Mostra del Cinema di Venezia sia cambiato l'atteggiamento degli italiani, anche del pubblico, nei confronti dei documentari? Non so, spero. Io racconto ogni tanto questa storiella che mi è capitata qualche mese fa a New York, quindi poi alla fine la stessa cosa, erano le 11 di sera, stavo affittando un film, un DVD, e c'era una mamma con una figlia di 15 anni, così, e la figlia non si decideva, non riusciva a capire che film volesse prendere. A un certo punto sento questa voce, la mamma mi fa: adesso basta, insomma, o ti decidi o affitto un documentario. Ed era la... era la cosa peggiore che potesse capitare, no? Quindi insomma io difendo molto la parola pubblico. Poi c'è il tipo di documentario, il cinema nasce, non c'è mai stata la distinzione all'inizio, la nascita del cinema nasce come film, è un film, no? Per me poi tutto quello che viene proiettato in un grande schermo è cinema. Si vede uno sguardo affettuoso nei confronti di questi protagonisti. C'è stata inevitabilmente, immagino, dell'empatia nei loro confronti. Io penso che per me, io non riesco a filmare quello che non amo, e quindi c'è un rapporto d'amore, un atto d'amore per me il film. È un atto d'amore anche nei confronti... forse quello che non volevo fare un film che criticasse le cose, l'Italia, l'Europa, tutte le solite cose, volevo che fosse un altro sguardo, ma non è che l'ho cercato, è venuto. Io riesco a filmare soltanto quello che amo e quello che mi aiuta a dare anche uno sguardo poetico alle cose. Quindi questi personaggi hanno una poesia meravigliosa, penso ognuno di loro è uno spazio enorme di racconto, di libertà, di sguardo, di parola. Quindi sarà stato anche forse doloroso dover operare dei tagli, immagino, su un materiale molto ampio. No, ma poi sai, i film sono la metafora di una storia che uno va a raccontare, poi la storia viene fuori una volta che c'è l'idea di una struttura narrativa. Ogni situazione prende il proprio posto e non puoi più muoverla, quindi quello che rimane fuori, io penso che un film è finito nel momento che tu hai lasciato fuori cose che ti sembravano meravigliose e non appartengono alla storia che racconti, però non ci pensi più. Poi per me il film è questo, sono questi 90 minuti, tutto quello che ho girato, che ho lasciato fuori, però non ho mai lasciato fuori dei personaggi, ad esempio, non c'è stato, forse ho ridotto chiaramente il materiale, però è stato ridotto perché ogni storia aveva bisogno di essere raccontata in quel modo, e quel modo assume uno spazio, una propria presenza e identità nel montaggio. E però una volta che la storia è fuori, c'erano delle cose bellissime, dici, ah, ma come è possibile, è fuori, fuori perché non appartiene alla storia, si è autoeliminata. Hotel Excelsior, Venezia. La sorpresa, il gioiello nascosto, il film da non perdere. Dal Lido arriverà a novembre al cinema Still Life di Uberto Pasolini. Non so se ho avuto un intento. Ho letto un articolo sul mestiere di queste persone e mi sono reso conto che ci sono migliaia e migliaia di funerali all'anno in Inghilterra, ma in tantissimi paesi dell'Occidente, dove non c'è nessuno presente al funerale. Sono delle vite che vengono dimenticate, sono dimenticate alla fine della loro vita e sono dimenticate nel momento della morte. E questa cosa mi ha colpito moltissimo e mi ha fatto pensare a una realtà sociale che è molto diversa dalla mia, che è la realtà dell'isolamento. Nel mondo occidentale, in particolare, due situazioni: il disgregamento, la scomparsa del nucleo familiare. Una volta le famiglie erano tre generazioni che vivevano in una casa, ormai sono diventate due oppure addirittura una, i genitori si separano, e allo stesso tempo la scomparsa del vicinato, la scomparsa della conoscenza del vicino, il vicino di casa, il dirimpettaio, il coinvolgimento nella vita del vicino. Sono delle cose che scompaiono, stanno scomparendo, e queste due situazioni creano isolamento, soprattutto per le persone più anziane che vengono separate dal resto della famiglia oppure che non hanno più famiglie, ma anche per giovani che si nascondono o pensano di avere delle vite piene in contatto con l'internet, giovani che hanno delle situazioni sociali o psicologiche difficili, e queste persone spesso e volentieri cadono fra le fessure dei servizi sociali e cadono in situazioni di solitudine, prima di tutto di isolamento e poi solitudine. Il passaggio fra l'isolamento e la solitudine è una situazione psicologica personale. Una persona può essere isolata, essere felice di essere isolata, non soffrire della solitudine, come il nostro personaggio principale, invece ci sono delle persone, la maggior parte delle persone, che soffrono la solitudine ma non ne possono uscire. Il tema della vita, ma soprattutto il tema della morte, è un tabù non solo nel cinema ma un po' in tutto il mondo occidentale. In questo film è trattato con poesia, a volte anche con allegria, con il sorriso. Come trovare il registro giusto nel parlare di un tema così delicato? Secondo me la cosa più importante è la delicatezza, cioè il fatto che il soggetto stesso sia un soggetto che può essere drammatico, lo accomuna a qualsiasi aspetto della nostra vita. La questione per me è questione di volume. Per me il volume, che sia una commedia, che sia una storia più drammatica, più triste, più coinvolgente in modo diverso, è di tenere il volume basso. Noi la consideriamo anche mediaticamente un autore italiano, ma lei invece come si considera? Il film è in realtà molto british. Io sono italiano, e sono certamente italiano, e più invecchio più italiano sono. Cinematograficamente è difficile dirlo. Io, prima di fare questo film, come ho detto, ho guardato moltissimo Ozu, dai film degli anni 20, i film muti, fino ai suoi ultimi film a colore. Ho riguardato Umberto D un paio di volte per capire come un italiano in un certo momento avrebbe trattato il problema della solitudine, il problema della morte. Ho guardato un po' tutto, ho riscoperto dei film di Dreyer che non vedevo da tantissimo tempo, da quando avevo 15 anni. non so se posso dire, non credo di essere inglese. Lei mi ha detto un film anglosassone, un film inglese. Io non credo che sia necessariamente inglese, è un'ambientazione inglese, un'ambientazione vera, sono dei luoghi veri, non abbiamo costruito set. Però la mia sensibilità, io la penso mia soprattutto. Certo, ho vissuto 35 anni all'estero, per cui qualcosa avrò assorbito dell'Inghilterra, della maniera di vivere anglosassone, dell'understatement anglosassone. Però io poi sono un manovale, non sono un autore, sono un come si dice, un... C'ho della roba, ci metto insieme le mani e poi si fa, se esce la pasta bene, se no esce solamente la farina che non si mischia, però... Per cui assolutamente non mi ritengo un autore, per cui non ritenendomi un autore non posso neanche pensare di appartenere a una scuola o a una storia di una cinematografia specifica. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri. Continuate a seguirci ogni giorno seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche il mio account @MartaCagnola. 140 caratteri torna ogni domenica alle 8:30 e 19:30.